Nuova puntata oggi, mercoledì 20 giugno e sì, beh, insomma, forse un po' si capiva, parleremo di scuola perché sì, la scuola è finita da circa 2 settimane, questa puntata doveva andare in onda per l'appunto mercoledì scorso e quindi saremmo stati proprio sul pezzo, se non che io ho avuto un po' di problemini e non sono andata in onda e quindi riciclo la puntata per oggi, che comunque direi che va bene lo stesso perché oggi iniziano gli esami di maturità, lo scritto, il tema, bla bla bla, quindi per molti siamo ancora nel vivo della questione, anzi direi che molti la scuola proprio tutt'altro che se la possono dimenticare, anzi sono proprio ossessionati e sono sul vivo del punto, del problema. Quindi un po' a tutti loro e anche a quelli che invece la scuola l'hanno messa nel cassetto almeno per i prossimi mesi estivi e sono in giro per le nostre città con queste facce soddisfatte, felici e piene di vita, a tutti loro insomma dedichiamo questa puntata di Slick Chick, che parlerà appunto di scuola con il bello e il brutto di diciamo un po' tutto ciò che questo ci evoca, ecco, le sensazioni belle, i ricordi negativi, le angosce e quant'altro. Abbiamo iniziato da Chuck Berry, come avete sentito, Chuck Berry School Days, pubblicata come singolo dalla Chess Records nel 1957, e racconta un po' il testo, forse insomma, era un inglese abbastanza facile, si capiva, il testo racconta una tipica giornata a scuola di uno studente con tutti gli affanni, i problemi, le speranze di un adolescente, ecco. Uno dei brani più celebri di Chuck Berry, poi ripreso un po' da tutti, si potrebbe dire uno standard rock and roll, ecco. È uno standard, invece questa volta blues, è il pezzo che ci andiamo a sentire adesso, il secondo pezzo in scaletta, che è di Sonny Boy Williamson, Good Morning Little School Girl, anche qui siamo sugli scolaretti e le scolarette, 1937 questa volta, quindi esattamente 20 anni prima. È uno standard blues, appunto, proprio in tutti i sensi, e si ritiene che abbia influenzato non poco i canoni blues, lo sentirete, insomma, molto molto classico. Sonny Boy Williamson è stato il più conosciuto e influente armonicista della sua generazione e tra l'altro veniva citato, insomma, lo chiamavano the father of modern blues harp, quindi insomma, diciamo che siamo sull'Olimpo degli armonicisti e del blues in generale. Contribuì a rendere popolare nel genere blues appunto l'utilizzo dell'armonica a bocca, che non era più uno strumento marginale secondario ma era proprio un vero e proprio strumento principale. E questo brano che ci andiamo a sentire, Good Morning Little School Girl, è per l'appunto la prima cosa che ha registrato Sonny Boy Williamson. E ahimè, 11 anni dopo, il primo giugno del 48, Williamson venne ucciso durante una rapina a Chicago mentre stava rincasando, stava tornando a casa dalla sua ultima esibizione live al The Plantation Club, che era un locale poco distante da casa sua. E quindi insomma, però qui siamo all'inizio, per fortuna, proprio il primissimo pezzo che chissà come mai Sonny Boy Williamson ha deciso di dedicare proprio alla scuola. Hello, little school girl. Good morning, little school girl. Can I go home? Can I go home with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little school boy. I woke up this morning, I woke up this morning, Lord, I couldn't make me no, Lord, I couldn't make me no time. Why that I didn't have no blues, woman, but I was all messed up in time. Now you be my baby. Come on and be my baby. I'll buy you a diamond. I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, and I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over this land. I'm gonna fly all over this land. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. I don't know Harlem, baby, wasn't this good, baby, wasn't this good. Well, then I don't want to never hurt your feelings or either get mad. Cambiamo assolutamente genere e anche anni, direi di brutto, anche se poi invece ritorneremo, insomma faremo un po' su e giù nel tempo, come d'altra parte è abbastanza usuale per Slick Chick, e arriviamo agli anni 80, in particolare proprio il 1980, preciso con l'album Absolutely Baggy Trousers dei Madness, dove i Madness appunto rimembrano i bei tempi andati della scuola. Beh, insomma, questa cosa è un'angolazione che troveremo spesso nella musica. Fondamentalmente i brani legati alla scuola sono quasi tutti o l'archetipo della ragazzina che va a scuola con tutte le questioni che possono girarci intorno, oppure i bei tempi andati, come si stava bene o come si stava male a scuola. Ecco, l'idea di Squad Madness vale la pena approfondirla perché è piuttosto diversa, per esempio, da quella dei loro connazionali Pink Floyd. Gli stessi Madness la spiegano in diverse interviste, in realtà, parlando delle diverse esperienze formative che hanno avuto. I Pink Floyd, ve lo ricorderete, in Another Brick in the Wall, ovviamente, parlavano delle scuole pubbliche britanniche, le severe e punitive scuole dell'impero, dove ogni mattina si cantava Rule Britannia, e vabbè, perché chiaramente quella era la loro esperienza scolastica. I Madness invece sono andati a scuola nelle Comprehensive Schools, un modello differente che seleziona gli studenti sulla base di criteri attitudinali invece che meritocratici. Sono scuole che esistono anche adesso, in realtà, anche se sono state per ovvie ragioni riformate tantissime volte. Insomma, sicuramente le scuole, le comprehensive schools a cui andavano i Madness non sono più le stesse di adesso, ma insomma comunque diciamo che l'impianto di base, il concetto che le rendeva molto diverse dalle scuole invece pubbliche britanniche, insomma, quello rimane. I Madness fanno un'osservazione molto arguta, a mio avviso, sull'approccio dei Pink Floyd, che secondo loro alla fin fine aveva una sorta di snobismo al contrario, dove si faceva a gara per chi aveva avuto la vita più dura e l'educazione più terribile, una sorta di autoindulgenza, loro la chiamano proprio così, che invece i Madness capovolgono e controbilanciano, empatizzando in realtà con gli insegnanti, ricordandosi poi alla fin fine di quanto li avevano fatti impazzire. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when the lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rules. right again. All the small ones tell to tales, walking home and squashing shouts. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seems so bad. Trying different ways to make sure we go through the days. Lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to break it up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make the difference through the day. Eccoci qua, e ora arriviamo a un brano che non in realtà come atmosfera non è che proprio si discosti moltissimo da quello che abbiamo appena ascoltato, anche se poi insomma è diversissimo per da tanti punti di vista. Torniamo un po' indietro, torniamo nel 1958 con The Coasters e il loro Charlie Brown. Contrariamente a quanto si può pensare, siete degli ingenuotti se avete pensato questa cosa, del resto come me, perché io ne ero convinta, questa canzone non parla affatto di Charlie Brown dei Peanuts. Sembrava, no? Cioè, perché uno magari ci potrebbe... No. A parte il titolo, c'è anche il ritornello, d'altra parte, che contribuisce a confondere, perché c'è questa ripetuta frase «perché tutti mi prendono in giro», che potrebbe stare perfettamente in bocca al Charlie Brown che pensiamo noi. E però invece qui ci si riferisce a un personaggio generico, non quello dei Peanuts assolutamente, un ragazzino che tutti a scuola prendono in giro appena apre bocca e manco lui ne capisce il perché. E se ve la devo dire tutta, erano dei bulli questi Coasters, ecco cos'erano, cioè altro che... Everybody always picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Getting 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Everybody always picking on me. Teach your daddy-o, Charlie. why's everybody always picking on me? Maledetti bulli. Grazie a questa trasmissione, grazie a Slick Chick per l'appunto, mi imbatto spesso in film italiani che non ho mai visto, devo dirvelo onestamente, e che invece mi viene immediatamente voglia di divorare proprio. E è il caso di il film da cui è tratta, da cui è tratto la canzone, il brano che stiamo per ascoltare, ovvero il film Cuore di Mamma del 1969, alla regia Salvatore Samperi. E Samperi si dirà così, boh, chissà dove è l'accento, vabbè. È un film dalla trama allucinata e violenta, e oltretutto, ovviamente, chi poteva meglio di Morricone musicarla? Non poteva essere altrimenti. Sono teneri bambini che fanno di fatto saltare in aria la famiglia e tutto quanto di sacro pensiamo di dover difendere. Le rovine di un mondo che crolla senza appello. D'altra parte era il 1969 e giustamente questo brano si intitola Ricreazione divertita. No, tra l'altro la trama di Cuore di Mamma non ve l'ho voluta raccontare appositamente, perché sennò veramente sciupo completamente ogni possibilità che possiate guardarlo, ma è una trama trama pazzesca, no? Cioè, veramente, guardate questo film. The Boom Town Rats è il prossimo gruppo che non potevo non mettere in questa scaletta, con I Don't Like Mondays, che, se non vi ricordate qual è, appena sentite partire il pezzo ve lo ricorderete istantaneamente, ve lo garantisco. L'album è The Fine Art of Surfacing del 1979, un bellissimo video, fra l'altro, che tra l'altro anche il video di Madness di prima, assolutamente da riguardare se non ve lo ricordate, ma anche questo di Boom Town Rats è bellissimo. E praticamente nel gennaio del 1979, questo è l'antefatto e la storia, Bob Geldof sente la notizia di una sedicenne di San Diego, Brenda Ann Spencer, che è entrata nella scuola elementare di fronte a casa sua e ha iniziato a sparare a casaccio, uccidendo due adulti e ferendo 8 bambini e un poliziotto. Alla fine la prendono, ovviamente la arrestano e le chiedono: vabbè, ma perché l'hai fatto? E lei risponde: non mi piacciono i lunedì. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, oh, oh, oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Down. Ecco, maledizione, però questa canzone mi resterà in testa per settimane, già lo so. E dai, Boomtown Rats, passiamo a un altro gruppo dei bei tempi che furono, piuttosto interessante, ovvero The National Voices. Il brano che ci dà l'occasione di ascoltarceli è Cool Senior High School, altrimenti detta Fight Song. L'album è 30 Point Program to Destroy America del 1991. Stiamo parlando della scena di Washington DC a cavallo tra gli anni 80-90, appunto, e la Discharge, insomma. È un gruppo molto radicale, National Ulysses, libertario sì, e anche liberatorio, ecco, più che altro, che proclamava la decolonizzazione della cultura giovanile e la distruzione della vita familiare e domestica. Non a caso il titolo dell'album, appunto, si dice Program to Destroy America, era un chiaro riferimento al programma del Black Panther Party. Pubblicarono una fanzina, anche la Ulysses Speaks, dove mischiavano situazionismo francese, movimenti degli anni 60 e 70 e teppismo bello e buono. Erano assai fisici nei loro concerti. Il cantante si è rotto gambe, braccia e teste, una sola ne aveva, testa, parecchie volte. E questi, insomma, sono i National Ulysses. Liberatori. E allora torniamo di nuovo un pochino indietro nel 1967, Don't Be a Dropout di James Brown. James Brown qui, dall'alto del suo buon esempio morale, cerca di incoraggiare i ragazzini a non abbandonare la scuola. Un problema pressante evidentemente in quegli anni, perché ci sono diversi musicisti che l'hanno affrontato un po' in stile pubblicità progresso, se dobbiamo dirla tutta veramente. E vabbè, e così fa anche James Brown, che d'altra parte se lo può permettere, può recitare anche la pubblicità, non lo so, come altri meravigliosi hanno fatto, leggere il cartellino dei maglioni, cioè non lo so, può fare quello che gli pare, e quindi fa anche questo. Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. He said he went for a job, and this the man said, without an education, you might as well be dead. Now don't get me wrong, he said it's not who you are, but people come to me from a near and a far. But I do just work, and I follow the rules. Didn't have an education, so I had to go back to school. My friend told all his buddies that he loved so well, and all their personal troubles I will not tell. Now those guys didn't seem good, and they that they follow the rules. They got an education and they all finished school. Now underneath his tears, I can see the true fact. When he dropped out of school, he never, never went back. They got to listen now, now. Without an education, look here. So one day he got tired of his little spending change. So he looked up his friends to check their pay range. When he got there, the crib, he found that he was a drag. Cause man, they were clean and his clothes were like rags. One was a businessman with a plenty of dough. He had his thing so set up, he knew he couldn't blow. The other had his job so uptight. He had his whole family and his kids all out of sight. Tell me one more time now. What he said, without an education, they got to get a little learning. What he said, without an education, might as well. Look at him. What made him so hurt that these were his friends and he was a drag? They looked at him and he was in the same old bag. For his friends, they worked real hard when the work that went through. Now he realized he should have done the same thing too. Tell me one more time now. What he said, without an education, might as well. You got to get some learning now. What he said, without an education, might as well. For the last time I'm gonna say, they kept on pushing when the going was tough. And now they know that things don't seem so rough. So kids, stay in school, don't be no drag. Take a fool's advice and stay out of that bag. Tell me one more time. What he said, without an education, might as well. You got to get some money now. What he said, without an education, might as well. Don't be a dropout, stay in school now, listen to me. E questo era quel viscidone di Fats Domino che si offre di portare i libri alla ragazzina che fa la sua stessa strada per andare a scuola. Il 1954, Little School Girl, appunto, di Fats Domino. Proseguiamo dal 54, facciamo uno zompo di un bel po' di anni. 2015, Elio e le storie tese andavano messi con Il primo giorno di scuola. Gli Elio e le storie tese dicono di questo brano: il primo giorno di scuola sulla porta dell'aula trovi scritto prima classe, anche se i banchi sono di legno, perché i bimbi devono comprendere da subito che la scuola è privazione, disagio, presentimento di morte. Oggi è il primo giorno di scuola. Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola! Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B. Forte la mia mano, che non sono amico di nessuno. Chi saranno i miei compagni? Quello lì meglio di no, lo conosco dall'asilo e mi sta sulle palle. E c'è pure la pediculosi, i capelli sono pidocchiosi. All'istruzione e alla formazione degli uomini. Domani, maledetto primo giorno di scuola, la mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola. Maledetto primo giorno di scuola, è finita la mia libertà, per sempre seduto ad un banco di scuola, di scuola, di scuola. Maledetto primo giorno di scuola, la mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola. Maledetto primo giorno di scuola, è finita la mia libertà, per sempre seduto ad un banco di scuola, di scuola, di scuola. È finito il primo giorno di scuola, e domani il secondo verrà, e poi tanti tantissimi giorni di scuola, di scuola, di scuola. Io da questo primo giorno di scuola francamente mi aspettavo di più. Non è posto per te il primo giorno di scuola, di scuola, di scuola. Maledetto primo giorno di scuola. Non sai quelli dopo. Allora, Elio e le storie tese, il primo giorno di scuola, appunto. E quindi questo mi ricorda, in effetti stiamo parlando dell'ultimo giorno di scuola, ora siamo zompati al primo giorno di scuola, ma vabbè, mi perdonerete. E vi ricordo, perché i bravi Ligi DJ lo fanno, i social Wombat, in particolare il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state già ascoltando cliccando sul fantastico pulsantino con quell'essere pelosetto che è il Wombat, che vi permette di accedere allo streaming e quindi di ascoltare la nostra diretta. E anche sul sito, trovate sempre sul sito, trovate anche tutta la paginetta con i podcast di tutte le trasmissioni, quindi le registrazioni delle puntate che vi siete malauguratamente persi, ma vi incitiamo ad ascoltarci in diretta perché ci piace di più, perché sennò ci sentiamo deficienti. Poi la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui scriverci anche lì per farci sentire un po' meno soli e un po' meno schizofrenici che parliamo da soli. Proseguiamo nella nostra scaletta invece, che è diciamo a due terzi, siamo quasi alla fine. E dagli Elio e le storie tese arriviamo ai Kinks, perché anche loro hanno parlato della scuola. Anzi, in realtà vi devo dire che hanno dedicato un intero concept album, l'ho detto, questa parola orribile, però dicono quelli che se ne intendono di musica. L'album è Schoolboys in Disgrace e il brano, cioè il concept album appunto è dedicato al sistema educativo, alla scuola tutta. E il brano in particolare, che è The Hard Way, è visto dalla prospettiva di un povero insegnante disilluso. Povero fino a un certo punto, perché insomma gli insegnanti disillusi ne fanno di danni, come ben saprete tutti voi, perché sicuramente almeno uno nella vostra vita purtroppo ve ne è capitato. E questi sono i Kinks. You never listen to a word I say. And if you think you hear the mess around, you're making a big mistake. 'Cause you're gonna find out the hard way. You're gonna find out the hard way. No matter what I do or say, you're much too dumb to educate. One day life's gonna turn around and slap you in the face. And you're gonna find out the hard way. You take the hard way. Ecco i Kinks, e dai Kinks arriviamo invece Hyper Jam con Jeremy, l'album è Ten del 1991, vabbè, che ve lo dico a fare perché insomma penso sia uno dei, dei brani più famosi di Pearl Jam. La canzone è ispirata, beh penso forse lo saprete, da un articolo di giornale che trattava di un sedicenne chiamato Jeremy Wade Deal di Richardson nel Texas, immagino un ridente paesino del Texas, che si sparò sotto gli occhi della classe, della sua stessa classe, la mattina dell'8 gennaio 1991 alle 9:45 circa. Quando furono chieste a Eddie Vedder notizie sulla, sulla canzone, dettagli e quant'altro, egli dichiarò: l'idea viene da un paragrafo su un giornale il cui senso era: ti uccidi e fai un grande vecchio sacrificio cercando di ottenere la tua vendetta. Questo è ciò che finisci per ottenere, un paragrafo su un giornale. 17 gradi e nuvole in un quartiere suburbano. Questo è l'inizio del video e questa è la stessa cosa che si vede alla fine. Non fa differenza, niente cambia. Il mondo continua e tu non ci sei più. La miglior vendetta è vivere e mettere alla prova te stesso. Le restrizioni, vabbè, questo è quello che ci diceva appunto Eddie Vedder e in effetti poi se vi andate a vedere il video è abbastanza didascalico. Le restrizioni di MTV sulle immagini violente non permisero però a Mark Pellington, l'autore del videoclip, di mostrare Jeremy che si metteva l'arma in bocca e premeva il grilletto nel climax massimo del video. Ironicamente, l'ambiguo primo piano di Jeremy alla fine del video, poi c'erano invece i compagni di classe che si difendevano, e poi dopo erano tutti coperti di sangue, insomma alla fine eravamo tutti portati a pensare che lui alla fine più che uccidere se stesso uccidesse l'intera classe. Quindi la censura di MTV insomma ha ottenuto un effetto quantomeno probabilmente non quello che loro speravano. Nel 1996, tant'è, magari non c'entra niente, chissà, comunque alla Frontier Junior High School di Moses Lake, Washington, nello stato di Washington, Barry Lukaitis, non so chissà come si legge, uccise 3 persone dichiarando che fu influenzato dalla canzone e probabilmente pure dal video. Dopo il massacro della Columbine, ve lo ricorderete, nel 99 il video fu bandito per un certo tempo e poi in realtà da allora sia MTV che VH1 hanno raramente mandato in onda questo video e quindi noi siamo in radio, non ce ne può fregare di meno del video, però invece il pezzo musicale ce l'ascoltiamo per intero ovviamente. Of mountaintops with him on top. Mr. Bungle, forse vi ho tipo ucciso, ma d'altra parte era un po' che non vi rivocavo Mike Patton, lo dovevo fare e quindi vi siete beccati. Mr. Bungle, Everyone I Went to High School With Is Dead. Edificante titolo per un'edificante canzone, ovvero tutti quelli con cui andavo a scuola sono morti. L'album è Disco Volante del 1995, giusto per controbilanciare, no? Per dare una visione della scuola bella presa bene. E allora, ma bilanciamo dall'altro lato, tornando anche un po' indietro, 1958, Jerry Lee Lewis, che anche lui, in quanto a viscidume, un po' ne sapeva. High School Confidential, che tra l'altro è anche allo stesso titolo, insomma la stessa la canzone che ha lo stesso titolo del film diretto da Jack Arnold, quindi High School Confidential era anche il nome di questo film. Pare che Jerry Lee Lewis registrò di questa canzone, registrò ben 14 take alla Sun Studio, però poi alla fine non ne ha usata nessuna e le session della Sun e le Sun Session furono poi pubblicate solo parecchio più là negli anni 80. Il singolo invece quindi non fu preso dalle registrazioni della Sun, ma fu fatto uscire dopo, riregistrando in un'altra versione altrove, in tutt'altro studio. Questo brano parla delle cose che ti scuotono e ti agitano durante gli anni di scuola e il tempismo per l'uscita di questo brano fu perfetto, perché esattamente in quel periodo uscì la scandalosissima notizia che Jerry Lee Lewis era fuggito per sposarsi con sua cugina tredicenne. Lo saprete, l'avrete letto sicuramente, ecco, e questo brano direi che è abbastanza didascalico. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blows a fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, aching at the high school hop, hopping at the high school hop, the rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the rhythm, sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go! I'm gonna give you some good news. Look at here, sweet mama, let's burn off both my shoes. Hey, my heart's a beating rhythm and my soul is singing the blues. Well, hopping at the high school hop, hopping at the high school hop, jumping at the high school hop, we're rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! Play it smart and play it cool. You'll never play the part of a fool. 'Cause when you learn more, you're bound to earn more. When you stay in school, just remember in school. Mamma mia, sto pezzo. Cioè, mi vergogno un po' di avervelo messo, sì, in effetti. E, Brenda Holloway, Play It Cool, Stay in School, vabbè, ma veramente. Uscito per la Motown nel 1966, un altro brano che implora i pargoli di non abbandonare la scuola. Penso che avrà avuto un gran successo, sicuramente tutti ascoltando questo pezzo, subito bordo a scuola, il giorno dopo, immediatamente. Con questo abbiamo quasi finito, vi lascio all'ultimo brano di questa scaletta di oggi, che vi ricordo, se vi eravate distratti o vi era cascata la testa sulla tastiera e non vi ricordavate più niente, era una puntata dedicata alla scuola. Slick Chick, che vi ricordo, va in diretta alle 21 ogni mercoledì e in replica il venerdì alle 23 e il sabato alle 17, quindi insomma ce n'è abbastanza per tutti i gusti e potete ascoltarla un po' quando vi pare, oppure in podcast come già vi ho spiegato. E quindi vi direi che con questo vi abbandono a voi stessi, vi lascio e vi do però appuntamento alla prossima puntata di mercoledì prossimo. Per qualche mercoledì ancora vi prometto continuerò le dirette sfidando il caldo nella Wombat Caverna, ma a una certa mi prenderò la mia meritata vacanza, ma non vi lascerò da soli perché Slick Chick proseguirà in versione estiva con le letture di Slick Chick, ma non vi anticipo nient'altro, un po' perché ne so quanto voi, ma è anche perché non, sennò vi rovino la sorpresa. Ma prima di lasciarvi vi introduco l'ultimo pezzo della scaletta, che è di Bob Seger, School Teacher, l'album è Seven del 1974, sound della Detroit degli anni 70, ma non soltanto la Motown c'era a Detroit negli anni 70, ma pure le tute blu e il proletariato del Midwest, come direi abbastanza noto a tutti. E, basta parlare solo degli studenti, Bob Seger si baccaglia qui un insegnante, che, come dagli torto. Quindi Bob Seger, School Teacher, ciao ciao! Every day on your way to school, I seen you talking to the children, I seen you talking to. Ooh, yeah. School teacher, yeah. Work in the border beneath the building, and I'm so lonely. Going to your party, going to your meeting, you look so busy. Are you?